terzo anello, ad alta voce. L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Dal fianco della montagna, che era lì ripida e rocciosa, si staccò una cascata di ghiaia e precipitò rumoreggiando e rimbalzando fra gli alberi. Gli occhi mi corsero istintivamente in quella direzione e vidi un'ombra scivolare veloce dietro il tronco di un pino. Che cosa fosse, orso, scimmia o uomo, non avrei saputo dire. Sembrava scura e pelosa, altro non ne afferrai, ma il terrore di questa nuova apparizione mi indusse a una sosta. Immediatamente l'ombra riapparve e facendo un ampio giro cominciò a tagliarmi la strada. Cominciò a tornarmi in mente quel che avevo sentito dir sui cannibali e per un pelo non gridai aiuto. Però il semplice fatto che uomo fosse, sia pure selvaggio, mi aveva fino a un certo punto rassicurato e la mia paura di Silver aveva cominciato a ravvivarsi in proporzione. Mi arrestai dunque e cercai di escogitare qualche piano di fuga, ma mentre stavo così riflettendo, il ricordo della mia pistola mi balenò al pensiero. Non avevo finito di rammentarmi che non ero disarmato, che il coraggio mi si riaccese in cuore e feci fronte risoluto a codest'uomo dell'isola, indirizzandomi arditamente verso di lui. «Chi siete?» chiesi. «Bengal», rispose, e la sua voce suonò roca e goffa, come una toppa arrugginita. «Sono il povero Bengal, sono, e da 3 anni non ho parlato a un cristiano». 3 anni?» esclamai. «Siete naufragato?» «No, compagno, abbandonato». Avevo già sentito il vocabolo e sapevo che significava un'orribile forma di castigo, abbastanza comune fra i filibustieri, per la quale il colpevole viene sbarcato con un po' di polvere e di piombo e abbandonato in qualche isola desolata e remota. «Abbandonato 3 anni fa, continuò, e campato di carne di capra, di vacche e frutti di mare. Dovunque si trovi, sai, l'uomo può bastare a se stesso. Ma vedi, compagno, avrei una voglia matta di cibo da cristiano. Non avresti per caso un pezzetto di formaggio addosso? No, pazienza. Quante notti interminabili ho sognato un pezzetto di formaggio, specie abbrustolito, e poi mi sono destato per ritrovarmi qui». «Se mi riesce di tornare a bordo», risposi io, «avrete formaggio a volontà». «Se ti riesce di tornare a bordo, dici?» andava ripetendo. «Perché? Perché chi te lo può impedire?» «Voi no, certamente», fu la mia risposta. «E hai più che ragione», gridò. «Ma tu, come ti chiami, ragazzo?» «Jim», risposi. «Jim, Jim», ripeteva con evidente compiacimento. «Ebbene, Jim, senti, ho trascorso una vita così atroce che ti vergogneresti a sentirla raccontare. Ecco, per esempio, potresti credere a vedermi che io abbia avuto una madre devota?» «Beh, no, non precisamente», risposi io. «Vedi», continuò lui, «e invece l'ho avuta, e straordinariamente devota. E io sono stato un ragazzino gentile e timorato, in grado di recitarvi tutto di seguito il suo bravo catechismo senza saltare una sillaba». «Ed ecco, ecco a che punto ci si riduce, Jim. Dopo aver cominciato giocando sul sacrato della chiesa, si comincia così e poi... e poi non si sa dove si vada a finire. E mia madre mi aveva avvertito e predetto ogni cosa mi aveva predetto, quella santa. Ma è stata la provvidenza a mettermi qui. Ho ripensato ogni cosa su quest'isola deserta e sono tornato alla fede. No, non mi vedrai mai più a bere rum a quel modo, un goccino, quel non si impera augurio, appena mi capiterà. Ho giurato di essere buono e so come si fa. E poi, Jim, e si guardò attorno abbassando la voce in un soffio, sono ricco io. A questa sortita rimasi convinto che a quel poveretto avesse dato di volta il cervello per l'isolamento e ritengo di aver tradito questo pensiero sul viso perché ripeté la sua affermazione con calore. Ricco, ti dico, ricco! E ti dirò cosa voglio fare. Voglio far di te un uomo, Jim. Ah, Jim, benedirai la tua stella, tu di essere stato il primo a trovarmi. Ma dopo queste parole un'ombra fosca gli si stese improvvisamente sul volto, mi strinse più forte la mano che teneva e alzò minaccioso l'indice davanti ai miei occhi. Dimmi la verità, Jim, non sarebbe mica la nave di Flint quella? A questo punto ebbi un'ispirazione felice, cominciai a ritenere di aver trovato un alleato e gli risposi senz'altro: no, non è la nave di Flint, Flint è morto. Ma per dirvi il vero, come mi avete chiesto, ci sono alcuni marinai di Flint a bordo ed è una sciagura per il resto di noi. Non c'è mica un uomo con una gamba sola? Ansimò. Silver, chiesi io. Ah, Silver, disse. Così si chiamava. È il cuoco e per giunta il caporione della banda. Mi teneva ancora per il polso e a quel nome quasi me lo tolse. Se ti ha mandato Long John, disse, posso considerarmi come un suino macellato, lo so. Ma voi ve l'immaginate in che acque vi trovate? Io avevo preso in mantinente la mia decisione e in forma di risposta gli narrai l'intera storia del nostro viaggio e la critica situazione in cui eravamo venuti a trovarci. Mi ascoltò col più vivo interesse e quando ebbi terminato mi dette un colpetto sul capo. Sei un buon figliuolo, Jim, disse, e vi trovate tutti quanti a mal partito, non ti pare? E allora fidatevi di Ben Gunn. Ben Gunn è il tipo che vi ci vuole. Ma dimmi, credi probabile che il tuo cavaliere si dimostri generoso in caso di aiuto, trovandosi così a mal partito come hai ammesso? Gli dissi che il cavaliere era il più generoso degli uomini. E allora ti dirò come stanno le cose, seguitò. Ti dirò quanto basti e nulla più. Io ero imbarcato con Flint quando seppellì il tesoro. Lui con sei marinai robusti stettero a terra per una settimana e noi a bordeggiare su e giù con il vecchio tricheco. Un bel giorno venne il segnale ed eccoti di ritorno Flint, solo su una scialuppa con la testa avvolta in una fasciatura blu. Si stava levando il sole e lui sembrava pallido come un morto lì a prua. Ma lui era vivo, capisci? E tutti gli altri sei morti e sepolti. Come avesse fatto, nessuno a bordo se lo poteva spiegare. Comunque c'era stata battaglia, assassinio e morte improvvisa. Lui contro sei. Billy Bones era secondo di bordo, Long John timoniere. E loro gli chiesero dove fosse il tesoro. Ah, rispose lui, non avete che da scendere a terra e restarci. Se vi fa piacere, perché quanto al bastimento, salperà subito per la galera. Ecco quanto disse. Bene, 3 anni fa io mi trovavo su un'altra nave e avvistammo quest'isola. Ragazzi, dissi io, là c'è il tesoro di Flint, approdiamo e cerchiamolo. Il capitano se ne mostrò dispiaciuto, ma i miei compagni erano tutti d'accordo e prendemmo terra. Continuammo a cercare per 12 giorni e ogni giorno me la vidi più brutta, finché un bel dì tutti i marinai tornarono a bordo. Quanto a te, Benjamin Gunn, eccoti un moschetto, dissero loro, una vanga e una pala. Puoi rimaner qui a trovartelo da solo il tesoro di Flint, dissero loro. E accompagnò le sue parole strizzandomi l'occhio e dandomi un violento pizzicotto. Tu riporta queste precise parole al tuo cavaliere, Jim, seguitò. Ben Gunn non era un semplice marinaio, questo è quanto devi dire. Per 3 anni è stato abbandonato sull'isola di giorno e di notte, al sereno e alla pioggia, e a volte può darsi che abbia detto una preghiera, dirai così, e a volte può darsi che abbia pensato alla sua vecchia madre, se per caso fosse ancora viva, dirai così, ma la maggior parte del tempo è questo che devi dire, la maggior parte del tempo Ben Gunn l'ha spesa in un'altra faccenda. E poi gli darai un pizzicotto, come faccio con te, io. Sta bene, dissi. Non ho capito un accidente di quanto mi avete detto, ma non ha la benché minima importanza, perché tanto, come farò a tornare a bordo io? Ah, fece lui, questo è il problema, certo. Però c'è la mia barca, costruita da me con queste 2 mani, la tengo sotto la roccia bianca. Alla disperata potremo provare con quella a notte alta. Proruppe a un tratto. Che cos'è questo? Perché proprio allora, quantunque rimanessero un'ora o 2 di sole, tutti gli echi dell'isola si destarono e rombarono al tuonare di una cannonata. Hanno cominciato a combattere! Gridai. Seguitemi! E dimenticando tutti i miei terrori, cominciai a correre verso l'ancoraggio, mentre stretto al mio fianco, l'abbandonato nelle sue pelli caprine, trotterellava, facile e leggero. Il colpo di cannone fu seguito, dopo un considerevole intervallo, da una scarica di fucili, un'altra sosta, e poi, a meno di un quarto di miglio di fronte a me, potei contemplare la bandiera britannica sventolare in aria, al di sopra di un bosco. Narrazione continuata dal dottore. Fu verso l'una e mezzo, tre tocchi in gergo marinaro, che le due scialuppe partirono dalla Hispaniola per prendere terra. Il capitano, il cavaliere ed io stavamo in cabina discutendo la situazione. Ci fosse stato un filo di vento, saremmo piombati sui sei ammutinati rimasti a bordo con noi. Avremmo mollato gli ormeggi e via, al largo. Ma il vento mancava e per colmo di sciagura Hunter se ne arrivò con la notizia che Jim Hawkins era scivolato in una scialuppa e andato a terra con gli altri. Non ci passò nemmeno per la mente un dubbio su Hawkins, ma rimanemmo in pensiero per la sua vita. Con i marinai in quello stato d'animo ci pareva un mero caso poter rivedere quel ragazzo. Corremmo in coperta. La pece bolliva nelle commessure, il fetore disgustoso di quella località mi dava la nausea, semmai si respirò malaria e dissenteria fu in quell'abominevole ancoraggio. I sei manigoldi erano seduti brontolando sul castello di prua dietro una vela. Verso terra potevamo vedere le scialuppe ancorate, con un uomo a sedere in ciascuno, proprio alla foce di uno dei fiumiciattoli. Uno dei marinai fischiettava Lillibullero. L'attesa era sfibrante e fu deciso che Hunter e io andassimo a terra con la barchetta in cerca di notizie. Le scialuppe avevano poggiato a destra, ma Hunter e io puntammo diritto verso il fortino segnato sulla carta. La costa presentava una leggera prominenza e io governavo in modo da metterla fra noi e loro. Così anche prima di prendere terra avevamo perso di vista le imbarcazioni. Balzai fuori e mi portai correndo più avanti che potei con un fazzolettone di seta sotto il cappello per rinfrescarmi e un paio di pistole pronte al fuoco a mia salvaguardia. Non avevo percorso 100 yard che giunsi al fortino. Ecco come era disposto. Quasi sulla sommità di un monticello scaturiva una polla di acqua limpida. Orbene, sul monticello, includendovi la polla, era stata costruita una robusta ridotta di tronchi, capace di una quarantina di uomini, con feritoie da fucilieri su ogni lato. Tutt'intorno era stata ricavata una vasta radura e la costruzione era stata completata con uno steccato alto 6 piedi, senza porta o altra apertura, troppo solido per poter essere demolito senza tempo e fatica e troppo aperto per proteggere gli assalitori. Chi si fosse trovato nel fortino li aveva sotto tiro da qualsiasi posizione, standosene tranquillo al riparo, poteva fulminarli come tante pernici. Quel che più mi sedusse fu la polla, perché quantunque nella cabina della Hispaniola avessimo abbondanza di armi, munizioni e viveri, nonché vini prelibati, una cosa vi era stata trascurata. Non avevamo acqua. Stavo riflettendo su questo quando mi giunse ripercosso attraverso l'isola il grido di un uomo colpito a morte. Non sono un novizio in fatto di morti violente. Ho servito sotto Sua Maestà Reale il Duca di Cumberland e mi son buscato io stesso una ferita a Fontenoy, ma ebbi un tuffo al cuore. Jim Hawkins è belle andato, fu il mio pensiero. È qualcosa essere stato combattente, ma qualcosa di più essere stato dottore. Non c'è tempo di gingillarsi nel nostro mestiere. Così io presi all'istante la mia decisione e senza perdere un minuto tornai alla spiaggia e balzai nella barchetta. Per fortuna Hunter era buon vogatore. Volammo sull'acqua e presto la scialuppa fu attraccata e fui a bordo della goletta. Thank you. collocammo il vecchio Red Rose nel passaggio fra la cabina e il castello di prua con 3 o 4 moschetti carichi e un materasso per riparo. Hunter condusse la barchetta sotto la finestra di poppa e Joyce e io ci mettemmo a caricarla di casse di polvere, moschetti, scatole di gallette, barili di lardo, un barilotto di cognac e la mia inestimabile cassetta di medicazione. Frattanto, il cavaliere e il capitano erano rimasti sul ponte e quest'ultimo chiamò il timoniere, che era a bordo il più elevato di grado. «Signor Hans!» disse. «Qui siamo in 2 con un paio di pistole ciascuno. Chiunque di voi faccia il benché minimo segnale è uomo morto!» Furono colti in gran parte di sorpresa e dopo breve consultazione prima uno e poi tutti si infilarono nel boccaporto di prua ritenendo senza dubbio di poterci prendere alle spalle. Ma quando videro Red Rose che li aspettava nella galleria, tornarono immediatamente sui loro passi e di nuovo emerse sul ponte una testa. «Giù, cane!» gridò il capitano, e la testa si rinfilò giù, e per qualche tempo non sapemmo altro di quei 6 vigliacchi. Frattanto, buttando giù la roba come capitava, terminammo di caricar la barchetta quanto più potessimo. Joyce ed io uscimmo dalla finestra e ci dirigemmo di nuovo a terra, vogando a tutta forza. Prendemmo presto terra nello stesso punto di prima e ci mettemmo ad approvvigionare il fortino. Tutti e 3 facemmo il primo viaggio stracarichi e lanciammo le nostre provvigioni al di là della palizzata. Poi, lasciandoci a guardia Joyce, uno solo è vero, ma con mezza dozzina di moschetti, Hunter ed io tornammo alla barchetta e ci caricammo ancor di più. Così continuammo senza una sosta per riprendere fiato finché tutto il carico non fu sistemato. Allora i 2 domestici presero i loro posti nel fortino e io, con tutte le mie forze, vogai verso la Hispaniola. Il cavaliere mi aspettava alla finestra di poppa, ormai superato interamente il suo scoraggiamento. Afferrò e legò la gomena e noi ci precipitammo in fretta e furia a caricare. Lardo, polvere e biscotti costituirono quel carico con solo un moschetto e un coltellaccio a testa per il cavaliere, me, Red Root e il capitano. Gettammo in mare il resto delle armi e della polvere a 2 braccia e mezzo di profondità, sicché potevamo veder scintillare l'acciaio al sole sotto di noi sul pulito fondo sabbioso. Red Rose si ritirò dal suo posto nella galleria e si lasciò cadere nella barchetta che noi guidammo verso la parte posteriore del ponte perché fosse più a portata del capitano Smollett. «Marinai!» gridò il capitano. «Mi sentite?» Dal castello di prua non venne risposta. «È a te, Abraham Gray! È a te che parlo!» Ancora nessuna risposta. «Gray!» riprese il signor Smollett un poco più forte. «Sto per lasciare il bastimento! Ti ordino di seguire il tuo capitano!» «So che in fondo sei un brav'uomo e ritengo che nessuno della vostra banda sia così perverso come vorrebbe far credere. Tengo l'orologio alla mano. Ti do 30 secondi per raggiungerci!» Seguì una pausa. «Su via, compagno!» continuò il capitano. «Deciditi alla svelta! Io rischio la mia vita e quella di questi ottimi gentiluomini ogni secondo che passa!» Vi fu un improvviso tafferuglio, un rumore di colpi e Abraham Gray si precipitò fuori con una coltellata attraverso una gota, accorrendo verso il capitano come un cane al fischio. «Sono con voi, signore!» disse. E un momento dopo, tanto lui che il capitano si erano calati a bordo con noi e avevamo preso il largo. A quel punto eravamo fuori del bastimento, ma non ancora a terra, nel nostro fortino.